Ricordate, non basta calcolare quante volte dovrete passare sotto a un tronco in 24 passi. Dovete togliere anche i casi in cui radice e tronco coincidono, portandovi a fare una deviazione.